Presenta il suo libro dal titolo C'è sempre da imparare, è una edizione aggiornata e rinnovata rispetto a un libro pubblicato un po' di tempo fa, anzi per metà neanche tanto tempo fa, un paio di anni fa, ed era soprattutto stato presentato dalla biblioteca in un'altra forma, con una video intervista, perché i tempi non ci permettevano ancora purtroppo un incontro in presenza. Quindi se volete potete anche rivederla su YouTube. Tuttavia, insomma, siamo contentissimi adesso di poterla riproporre con anche un'edizione rinnovata e aggiornata in questa formula qui, cioè in presenza finalmente e soprattutto tra i nostri libri. Questa biblioteca da anni si impegna per approfondire la conoscenza, per essere un servizio pubblico che di utilità, ecco, per gli utenti, ma anche una fonte di curiosità. E in questo abbiamo bisogno sempre di tante persone competenti e generose che ci aiutino in questo nostro servizio, e una di queste è sicuramente il professor Giorgio Dobrilla e anche la sua signora Irene Dobrilla, perché devo dire che da anni ci aiutano nella promozione della conoscenza, della cultura e di una consapevolezza nelle scelte del cittadino e della cittadina corrette, ecco, senza inseguire sirene o varie informazioni che a volte possono essere anche rischiose per tutti noi. Non mi dilungo oltre, vi segnalo che questa biblioteca è sempre attiva, quindi ogni settimana organizziamo degli incontri come quello di questa sera, anche lunedì prossimo ci sarà un incontro di interesse storico che fa parte di una serie di iniziative con l'università, e quello di lunedì sarà Povertà e Vagabondaggio nell'arte sudtirolese. Avremo con noi fra Paolo Canepere e Francesca Brunette, e poi mercoledì invece avremo l'incontro con il gruppo di lettura che siete così invitati, a cui siete invitati a partecipare, a una modalità più, diciamo, condivisa di letture e di scambi di opinioni, sempre alle 17:30 e sempre qui in biblioteca. Lascio la parola al nostro ospite, che ringrazio ancora, e una buona serata a tutti voi. Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, grazie alla direttrice di questa biblioteca che è sempre attivissima, che è fonte di cultura instancabile nonostante difficoltà organizzative che incontra a ogni passo. Quindi complimenti, e vengo volentieri in questo ambiente proprio per questo motivo qua. Volevo avvertirvi anche che, non per presunzione o ambizione personale, qualche copia del libro ce l'ho qua. Tutti i diritti del libro vanno a Save the Children, quindi sono contento di vendere, non perché mi arricchisco, ma perché mandiamo qualche euro a delle persone che stanno molto peggio di noi. Scusami, ero dimenticata di... L'ho ricordato io. Grazie. Ecco, infatti, quello, come diceva la dottoressa Trevisan, questo era di un anno fa, l'edizione di un anno fa, e la prefazione era di Piero Angela. E Piero Angela, poco prima di morire, avevamo un rapporto molto affettuoso, molto serio, diciamo così, e poco prima di morire mi aveva detto questo tipo di libro, questo tipo di informazione andrebbe ripreso, dovresti farne un'altra edizione. L'ho fatto un'altra edizione, ma purtroppo non con la prefazione di Piero Angela, che nel frattempo è scomparso, una grande perdita di serietà scientifica, di modestia anche comportamentale, e come Piero ce ne pochi. Non mi lamento neanche, anzi sono orgoglioso della prefazione che lo ha sostituito, è quella di Paolo Pagliaro, che è l'uomo che con la Lilli Gruber alla sera, ma è lui che ha dato praticamente qualità alla trasmissione, fa il punto, un punto di 3-4 minuti in cui ha una capacità di sintesi e di chiarezza espositiva. E mi ricordo che il mio professor Belloni, direttore della neurologia di Padova, nell'Avanti Cristo in cui mi sono laureato io, diceva: la vera forma, la vera prova di intelligenza è la capacità di sintesi. Quindi effettivamente è nuovo, quasi nuovo questo libro, ci sono 60% citazioni nuove, non perché le vecchie non fossero valide, ma non potevo fare un librone così. 11 sezioni in totale, 2 sezioni nuove, autonome, vecchiaia, che riguardano vecchiaia e morte, e guerra e pace. Quindi è rinnovato profondamente, ma senza disconoscere la qualità dei temi trattati in precedenza. Salute e malattie. Ricordano pochi questa definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità. Se voi pensate, la qualità di questa definizione è una qualità molto elevata, perché quando ci troviamo in una di queste situazioni, e disabili in qualche modo lo siamo anche noi che veniamo considerati sani, ma in qualche parte abbiamo qualche disabilità nascosta, se siamo in queste condizioni, di salute non potremo mai goderne pienamente. Questo è evidente, ce ne dimentichiamo spesso, non solo A, ma anche B impedisce a molti, se non vengono aiutati, e questo è un punto centrale, di godere di un accettabile benessere esistenziale. Non dimentichiamoci, perché siamo privilegiati quando non rientriamo in queste due categorie. Questa è ancora vecchia, è una targa che aveva Albert Schweitzer. Qui a qualsiasi ora tu venga troverai chiarimenti e umana gentilezza. Dove era messa questa targa? Era messa a Lambaréné, un paesotto africano. Questo era l'ospedale in cui ha cominciato a lavorare Schweitzer, e riteneva già che la targa fosse valida per questo. Quando se n'è andato, dopo una vicissitudine enorme, aveva la fortuna di avere una moglie che condivideva con lui queste opere di altruismo, ha lasciato a Lambaréné un laboratorio, medicina generale, tropicale, chirurgia, ginecologia, pediatria, psichiatria, tutto quanto. Vorremmo trovare questa targa anche nei pronto soccorso nostri, però quella di dare solo colpa al pronto soccorso è un'ingiustizia, perché bisogna tener conto che in questo pronto soccorso poniamo che avesse bisogno di 10 persone, di 10 medici, ne ha 5. Poniamo che la quota di gente che si rivolge direttamente al pronto soccorso era 50 al giorno, adesso ne ha 500. Quindi è impossibile trovare umana gentilezza in una condizione così. Quindi è chiaro che sarebbe auspicabile, ma ricordiamoci che in questi momenti, in particolare in cui la sanità privata è in crisi, in cui le epidemie, le guerre, eccetera, hanno la sfida, e soprattutto il rapporto che diventa sempre peggio col proprio medico di casa, che anche lui ha le sue giustificazioni, allora capisci che non possiamo pretendere di trovare al pronto soccorso quella empatia, quella simpatia che caratterizzava l'opera di Albert Schweitzer. Nuova di Zecca, questo è un psicoterapeuta molto in voga, va spesso in televisione, ma ha anche una sua qualità, oltre che essere un po' patofobo anche lui. L'errore è più deleterio di un ipocondriaco, qual è? Cercare la malattia che teme su internet. Perché se uno ha un dubbio e va a informarsi per tranquillizzarsi su internet, spero di non tagliare le immagini a qualcuno, mi metterò qua. L'ipocondriaco inesperto che consulta il PC su presunti mali è vittima non di rado di fake news anche rischiose, perché non è semplice capire un linguaggio di una materia che non conosciamo. Ignora spesso la fonte di informazioni, cosa ne sa di chi ha messo quell'informazione? Spesso sono soltanto promozionali, più del 90% sono informazioni promozionali. Diffida non di rado del curante perché crede di essersi fatto una cultura con internet, e spesso lo cambia o cerca persino di influenzare i consigli. Uno viene lì, dottore non sarebbe il caso di darmi, gli dà già la diagnosi e la terapia. È portato a ricorrere a pseudoterapie abbondanti nel web. Qui lo vedete semplificato in questa immagine. Io sono un malato immaginario, lo so, perché sono cosciente, ma non posso farne a meno. È una pressione spontanea che lo rende vittima nei mesi, e può contare soltanto degli alti e bassi di cui essere consapevole per non deprimersi ulteriormente. Il malato immaginario è sempre esistito, vi ricordo l'opera di Molière, Argante, che è proprio il malato immaginario classico della storia. Questa è molto interessante, questa è Gordon Holmes, che è un neurologo inglese piuttosto celebre in Inghilterra ma non in Europa, e dice: se si buttassero a mare tutte le medicine sarebbe meglio per gli uomini, ma peggio per i pesci. Per cui il pesce che sa che gli bevono giù una serie di farmaci dice no, please, è terrorizzato. Questa ovviamente è una provocazione, è una esasperazione, è una provocazione contro che cosa? Contro l'abuso di farmaci spesso inefficaci o tossici. In era 3 studi controllati che non c'erano fino a qualche decennio fa. Incomprensibile riluttanza verso farmaci controllati veri e non contro quelli commercializzati senza verifica che vanno per la maggiore. Sembra che spacciare schifezze sia più conveniente che cercare di influenzare la gente con farmaci commercializzati e verificati. Pericolo del tutto inesistente buttando in pesci preparati omeopatici. Per l'uomo non sarebbe un rischio diretto, ma indiretto sì. Possibile che il miglioramento momentaneo di preparati omeopatici comporti un ritardo diagnostico e un ritardo di terapie che possono essere anche salvavita. Importante questo perché è vero, lo verifichiamo anche su noi stessi, voi pensateci, il dolore più sopportabile non è nostro, è quello degli altri. L'ha pronunciato Lerisch, che è stato un grande chirurgo vascolare francese, e che dice una verità, fotografia esatta della realtà. Siamo consci più del proprio doloretto che dei doloretti altrui, anche delle persone amate. Frangipane, noto vignettista, amico, cittadino, vedete che l'ha esemplificato con questa fotografia. Lui è stato punto da una zanzara, va a trovare un malato massacrato dopo un incidente d'auto e gli dice, invece che chiedergli come stai, gli dice mi ha punto una zanzara, gli racconta il suo piccolo dolore, perché il dolore dell'altro è molto più importante della sua psicologia. Una curiosità che vi informo, esiste una forma congenita di insensibilità al dolore per cui uno non prova dolore, è stata fatta con una serie cinematografica, se vi ricordate, mi pare che gli uomini che odiavano le donne o un titolo del genere, c'era l'assassino che poteva essere picchiato, graffiato, pugnalato eccetera, non avvertiva dolore. Purtroppo questa, o per fortuna, questo tipo di malattia genetica è molto rara. Vecchiaia. Orson Welles, a tutti noto, soprattutto ai noti, quelli che hanno qualche anno in più, la vecchiaia è la sola malattia dalla quale non si può sperare di guarire. Tutto può sperare, possiamo avere 1000 speranze, ma quella di non invecchiare non ce l'abbiamo. E abbiamo questa cosa, che la vita vissuta resta un'ombra di quello che è stato in passato per noi. L'osservazione è ovvia, ma la conclusione è che si può cercare almeno di vivere meglio, visto che non possiamo guarire, ma vivere meglio sì, sapendo che il tempo scorre sempre più veloce ed è meglio dire o fare subito le cose che ci soddisfano, perché domani potremmo non averne più tempo per farle. Difesa dalla malinconia, quale può essere? Avere ancora dei progetti. Uno che cessa di avere progetti è morto, spiritualmente è morto. Ha soltanto ricordi che di solito diventano rimpianti, più che ricordi benefici. Frase di Piero Angela, mi seccherà molto, me l'ha confermata poco prima di morire anche, mi seccherà molto morire con tutto quello che avrei ancora da fare. Quando c'è questa sensazione vuol dire che non siamo proprio vecchi interiormente. Orson Welles, inutile che vi ricordi, autore, regista, produttore americano, Il terzo uomo è il suo film più celebre. Vi ricordo anche che una sua trasmissione radiofonica in tempo di guerra, con la notizia che eravamo invasi dai marziani, ha destato panico in tutti gli Stati Uniti, e non era vero. La vecchiaia non protegge dall'amore, perché anche l'amore risentirà degli anni che passano, ma l'amore in qualche misura protegge dalla vecchiaia. Il sentimento dell'amore e dell'amicizia che è incluso nell'amore è un sentimento positivo. Sicuramente va contro la malinconia della vecchiaia. Per l'anziano, ricordi, rimpianti e malanni sono tanti. Anche quando il corpo non può esplodere come in gioventù, per qualcuno c'è ancora spazio per amare e innamorarsi. Qui vedete due anziani e uno che si trasmettono un gesto d'amore regalando un cuore ingrandito. Gesti affettivi, abbracci, una carezza, un'attenzione, bastano a diluire la tristezza della vecchiaia. Ma se questi gesti mancano, siamo proprio vecchi. Moreau si è protetta molto bene, forte ma non unico legame con Louis Malle, regista della Nouvelle Vague, e i suoi film più celebri, vi ricordo, Il patibolo e Les Amants. Una cosa spesso trascurata è questa affermazione qui di Albert Camus, premio Nobel, scrittore esistenzialista, famosi le sue opere Lo straniero e la peste, che io mi sono bevuto ai tempi del liceo, non essere più ascoltati. Questa è un'altra cosa terribile quando si diventa vecchi. Questo da solo, su una panchina, riflette, probabilmente un intellettuale, ha gli occhiali, ha uno sguardo intelligente, un tempo prendevano delle mie labbra. Ora si sente molto solo, anche se la famiglia è così premurosa. Li portano da mangiare, li portano da vestire, lo lavano, si occorre, eccetera, ma non lo ascoltano più. Non ha il fascino di colui che parla, la gente che è grata di quello che stai dicendo. E questi qui sono tutti dall'altra parte, magari sono tutti nipoti, pronipoti e figli. Questo è un elemento che quando la faccio ogni volta mi rende malinconico, perché anch'io sono anziano e per fortuna non sono solo sulla panchina. Un uomo vecchio solo quando i rimpianti in lui superano i sogni. L'ha detto Albert Einstein, che non era uno qualsiasi, uno che sapeva pensarci e fare delle equazioni. Allora dice che i ricordi sono positivi quando ti guardi nello specchio, ma il tuo spirito è ancora così giovane che ti riconosci nello specchio del giovane. Sono negativi invece i ricordi e diventano un rimpianto inutile quando ci troviamo in questa situazione qui. Morte. Più dolce sarebbe la morte. Shakespeare, siamo 5 secoli fa. Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto. Guardate la dolcezza di questa frase. Allora, che tipo di morte, che tipo di sguardo hanno potuto avere questi 3.395 morti a Bergamo, che sono morti in una casa di riposo col Covid, che è stato letale per loro, e non hanno avuto la possibilità prima di morire di vedere neanche la faccia di un figlio, di una madre, di un nipote, di qualcuno. Sono morti senza vedere nessuno. È altrettanto malinconico, forse anche di più, perché qui si tratta di una malattia imprevedibile. Qui sono cose che potrebbero essere previste. I morti nel Mediterraneo fino ad oggi, in 10 anni, calcolato recentemente in rete, sono 26.000 morti. Anche questi muoiono e non vedono, non hanno neanche il conforto di vedere uno sguardo di amore, di amicizia, o la madre che è caduta con la bambina, o il bambino e muore senza aver neanche visto per l'ultimo sguardo il viso di suo figlio. Morire è terribile, ma l'idea di dover morire senza aver vissuto è insopportabile per le persone che pensano. Quelli che non pensano e giocano a bocce tutto il giorno non credo che arrivino a questo tipo di riflessione. Questo è Erich Fromm, austriaco ma naturalizzato americano, è famoso perché ha scritto anche il libro Essere o Avere, che è stato un caposaldo della nostra formazione, della mia almeno, quando ero in liceo a Trieste, ed è veramente terribile questa considerazione qua. Aver vissuto magari 70-80 anni, non aver mai pensato, non aver mai sofferto, mai amato, mai pianto, aver vissuto come un animale. Ora capisco perché non ho vissuto, dice. Non ho mai pensato, e non ho mai pensato con la mia testa, solo con la testa degli altri, secondo la mia natura. Perché ho una natura che sarà compressa dall'educazione dei genitori, dall'ambiente sociale, eccetera, e sono rare le persone che sono lasciate, gli è permesso di svilupparsi secondo la propria natura, perché siamo influenzati terribilmente. E poi la famosa frase, Michael avrà 18 anni e s'arrangerà. Ma a 18 anni le sono fè, a 18 anni lui è già stato influenzato e non penserà più secondo la propria natura, se non con molta fatica. Non ho mai condiviso un amore e ho bruciato, frase che ho rubato al mio professore Luisi, che era un cattedratico, magnifico cattedratico, ce n'è pochi, di patologia generale, che diceva non bisogna bruciare solo il fuoco degli altri, ci commuoviamo, emozioniamo, piangiamo solo al fuoco degli altri, perché abbiamo letto che i due attori si sono lasciati, per quell'altro si divorzia. Ma è il fuoco nostro, quando bruceremo? Quando non ci saremo più. Purtroppo quando si muore, time is over, il tempo è scaduto. Questa non c'entra niente col libro, ma mi sentivo moralmente di metterla ex Abruzzo, soltanto per un commento, non dovrebbero esserci quelli che muoiono senza un voto, la malattia, cascano in media, ma questi muoiono per lavorare, di solito per lavori che non consentono neanche di vivere agiatamente. Allora questo non c'entra niente col libro, non c'entra niente con gli aforismi, ma c'entra con una considerazione malinconica, che per lavorare, tutti noi abbiamo un lavoro, se lavorando dovessimo morire per quello che facciamo sarebbe veramente insopportabile l'idea. Sentimenti, amore, passione, matrimonio, figli, qualsiasi tipo di sentimento. Ciao Marco. Accontentarsi di chiunque pur di non restare soli, se dovessi spiegare a parole l'infelicità farei così. Chi ha detto questa frase dissacrante? L'ha detto un dissacratore di professione, il Charles Bukowski, scrittore statunitense tedesco di nascita, sempre dissacrante. E lo vedete simboleggiato in queste due diapo. Quando c'è stata una scelta non per non restare soli, è possibile che succeda questo. Ero davvero innamorata e lo sono ancora. Gli sguardi sono rimasti quelli che era. Pur di restare sola, non l'avessi avuta questa paura, perché questo è un errore che si pagherà caro. Questo succede non tanto nelle città, ma succede nei paesi piccoli, dove il non sposarsi, soprattutto per la donna, è quella lì non sa sposare, quella. No. E questo è un destino ineluttabile. Gervaso, quando si ama, anche la gassosa sa di champagne. Bellissimo. Quando non ci si ama più, anche lo champagne sa di gassosa. L'impressione è che di questi ultimi tempi, ma forse perché ne siamo più informati che un tempo, le gassose siano prevalenti sulle bottiglie di champagne. Roberto Gervaso, inutile che vi ricordi che è stato un giornalista, scrittore, aforista, ha scritto anche libri seri con Montanelli, ma anche per conto suo era uno spirito dissacrante come Bukowski, anche se Bukowski era molto, molto monopolizzato intorno a rapporti sessuali. Un genitore, Paolo Carpè, è molto discusso, alcuni lo amano molto, alcuni sono scettici. È il figlio del mio cattedratico, quando all'università insegnava medicina del lavoro, lui è diventato psicoterapeuta. Un genitore, un istruttore di volo, deve insegnare ai figli di volare. Questo è il vero amore per i figli, o per qualsiasi persona, ma per i figli in particolare. Il figlio che chiede alla mamma o al papà, cosa vuol dire mamma quello che dice Carpè? Dice che nella vita tu sia te stesso e che io non devo farti fare ciò che voglio io. È una tentazione che ogni genitore ha per amore, ma come in tutte le cose bisogna che ci sia un certo equilibrio, che non si tarpi le ali di un sentimento, di una tendenza sentimentale, di un piacere di lavorare. Uno vuol fare il pompiere, lasciali fare il pompiere, perché se diventerà un matematico sarà infelice tutta la vita. Io nel mio piccolo, quando ero elementare, sognavo di fare o il pompiere o il medico. Poi con la maturità ho scelto di fare il medico. Mi è andata bene. È un compito difficile, ma questo è vero amore genitoriale, autentico, oltre che garantire ovviamente l'essenziale per la crescita. Psichiatra, sociologo e saggista. Leggere, cultura, ignoranza. Non è solo mancanza di cultura, l'ignoranza, ma soprattutto mancanza di curiosità. Spesso è colpa degli educatori, ma poi uno c'ha anche una dote personale di non voler leggere, di non voler capire. Ma certamente, almeno all'inizio della nostra vita, siamo fortemente influenzati dall'ambiente familiare e dall'ambiente scolastico. Guardate questa diapositiva. Vi confesso, l'avrò fatta 10 volte, questa e un'altra, quando le rivedo, rivedo la stessa emozione che mi ha colpito la prima volta che le ho lette, perché entrano nella carne queste cose qua. Allora, il pensare che Platone è vissuto nel 420 avanti Cristo, è morto nel 347, dica sostanzialmente le stesse cose di Goethe 2000 anni dopo, ci fa capire che quasi 2000 anni di saggezza sono buttati al vento dall'Homo sapiens, perché non è cambiato nulla. Il che significa che in 2000 anni abbiamo abbiamo la luce elettrica, abbiamo la cosa, uno diceva, uno ha scritto nell'Ottocento un conte aveva meno vantaggi dell'operaio di adesso, perché adesso uno preme il bottone e si accende tutto automaticamente. Ci sono mille motivi, ma certamente non siamo stati capaci di introdurre una modifica sentimentale, psicologica, educativa, per cui 2000 anni sono passati veramente invano. Uno era Platone, era il discepolo di Socrate, tutta non gente di poco conto, e Goethe è scrittore, poeta, filosofo tedesco, quindi razze diverse, momenti diversi, eppure la saggezza di questi personaggi antichi che hanno lasciato traccia della loro saggezza viene completamente disattesa dall'uomo moderno che sa tutto, ha il cellulare, va in rete, eccetera. Pericoli subito dell'ignoranza. Se voi pensate, vedete che vi verrà in mente qualcosa per ogni voce che io vi sottolineo. Ignoranza più religione, terrorismo. Dove c'è una religione marcata, dominatrice, prepotente, eccetera, abbiamo il massimo delle stragi anche in questo momento. Ignoranza più potere, tirannia, più o meno mascherata. Ignoranza più libertà sfrenata, uguale caos. Ignoranza più ricchezza, inevitabile che generi corruzione. È una tentazione irrefrenabile, siccome noi siamo homo, homini lupus, comunque sia, questa è una verità. Ignoranza più povertà è crimine, perché tutti, o quasi tutti noi, per salvare la vita di nostro figlio, ruberemmo qualcosa, se non abbiamo fame, andremo in un supermercato e cercheremo di rubare delle mele da portare a casa. L'ignoranza, oltretutto, come diceva il saggio, è gratis, ecco perché è così diffusa. Quando sento qualcuno parlare di cultura, la mano mi corre al revolver. Era nella vecchia edizione, ma l'ho messa perché è troppo importante per sostituirla. Hermann Göring, voi sapete la fine che ha fatto, si è suicidato, e nel teatro dell'opera a Berlino nel 1933 sono stati bruciati, Bücher verbrennungen, rogo dei libri, sono stati bruciati 25.000 libri di scrittori premi Nobel, magnifici, che hanno la sua storia, gente che anche quello che è scarso di cultura conosce, da Brecht, Freud, Arendt, Adorno, Kafka, Marcuse, London, Proust, Musil e altri. In tutta la Germania, che in quella notte ha bruciato 25.000 libri, in quella notte sono stati bruciati milioni di libri in tutta la Germania. Allora, la seguente, che adesso vedrete, dice che non occorre però bruciare i libri per impedire la... Non è necessario bruciare i libri per distruggere una cultura. Basta convincere la gente a non leggerli più. E noi che siamo qua in un ambiente di cultura, è come se la gente dicesse: ma non andate dalla Trevisan, non fatevi prestare il libro, non imparate come si usa il computer. È una lotta, e questo è un invito permanente che subiamo noi con la informazione e televisiva e giornalistica. Chi l'ha detta questa cosa? Ray Bradbury, scrittore USA, sceneggiatore del famoso Fahrenheit 451 e famoso anche per la regia magistrale di Truffaut. Quelli più anzianotti se lo ricorderanno bene. Bene, dice Bradbury, forte denuncia dell'avversione alla cultura di tutti i regimi autoritari e non solo quelli islamici. Lì ti può costare la vita comprare o difendere ciò che c'è scritto in un volume, qui un po' meno, ma ci sono conseguenze anche qua. La censura aumenta inevitabilmente il disinteresse per la lettura, perché sai che quello che viene è stato filtrato da qualcuno che ha interesse che tu non lo legga. Violare la censura può costare la prigione, la tortura, la vita. Subito la censura preventiva. Lo scriba manco affronta certi temi perché sa che il suo editore non lo pubblicherà. Guardate che questa è una realtà totale, vera, globale. Non legge nemmeno un libro all'anno il 39,3% della popolazione. Ma se voi pensate, allora la Trevisan ruba. Cosa sta a fare la Trevisan qui, le sue collaboratrici? Meno che chiuda bottega. Divertissement distraenti in TV ce ne invece aumentano logaritmicamente, dalla partita della Milan con Paris Saint-Germain, al Sanremo, ai pacchi, a tutta quella roba. Che non è che necessariamente siano negative, non possiamo sempre essere seri e pensare a robe serie, ma dovrebbe essere un divertissement, una distrazione momentanea, ma che non ci deve obliterare la capacità di pensare. Credere di sapere quello che non si sa è veramente la più vergognosa forma di ignoranza. Tutti noi, sono sicuro, in questa sala, hanno esperienza di quel che dice, secondo me cosa? L'associazione secondo me ha dei soci molto più numerosi che i soci della Biblioteca Provinciale Italiana. Sono tutti virologi, immunologi, climatologi, economisti, allenatori di calcio, vaccinologi. Erasmo da Rotterdam dice, Santa Socrate, ora pro nobis. Socrate, che era maestro di Platone, l'aveva già detto parecchio, aveva già messo in guardia parecchio su questo, come dice il titolo del suo aforisma. Taluni, leggendo, credono di studiare, ma senza meditare su quello che si legge, la lettura non è che un perditempo. L'ha detto questo Carlo Dossi, ignoto di più, che era un archeologo molto danaroso, scrittore anticonformista, faceva parte della scapigliatura milanese, che era fatta di letterati, come sapete, e musicisti antidisegnati. Bene, qual è il problema? Non basta leggere, bisogna anche capire quel che si legge. E già qui casca un macigno fondamentale, perché il lessico, anche nella normale... C'è una barzelletta che ve la racconto, di un paziente che aveva con la moglie, si lamentava che aveva qualche cosa che non andava bene, e va dal dottore e dice che ha un prurito anale, prende questa supposta, va a casa e il medico dice, ma che è questa supposta? E cosa è questa supposta? Perché è tanto grande che faccio fatica a prendere per bocca, ma se andiamo, torna, va, domandagli cosa è la supposta. Lui torna e dice, ma no, non per bocca, per via retale. Questo non capisce, torna a casa e mi ha detto per via retale. Ma come? Ti sei date, sono tornate, ma torna un'altra volta. E va e il medico gli dice, te se la metti nel culo. E allora questo torna a casa e la moglie dice, vi godite, sono tornato, vi godito come te mi hai raccomandato. Ma se garabbia. Poi magari bisogna meditarci su, e magari discuterne. Ricordare ciò che si è letto, se è importante, perché la memoria è importante. Ci sono delle persone che geneticamente hanno difficoltà a ricordare, vorrebbero, ma altre che si ricordano tantissimo. Modificare le proprie idee solo se si condivide ciò che si è letto, magari diverso da idee precedenti. Avere l'onestà di autocriticare i nostri pensieri precedenti. Non è facile, ma nulla è facile. Minacciosa previsione triestina, volgarotta ma verifica, tradurrò la M come macaco. Se un se macaco, resta macaco anche se ha studiato o se ha letto un'enciclopedia, perché non basta assolutamente leggere. Filosofia e società. Questa è bellissima, profonda e turbante direi. Rendi cosciente l'inconscio, altrimenti sarà l'inconscio a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino. Non perdere tempo ad aspettare il tuo destino, cercalo. Ognuno, pur con fatica, dovrebbe esplorare il proprio io, da solo o con l'aiuto di qualcuno, ma meglio da solo, più faticoso ma più redditizio. Verifica quanto le proprie idee siano davvero spontanee o influenzate, perché che faccia quel che vuole a 18 anni, ma gli ha già inculcato dentro tutto. Il modo di pensare, il modo di temere, il modo di amare, il modo di essere furbo. Verifica quando le proprie idee siano davvero spontanee. Attenzione insufficiente a chi siamo noi ed eccessiva ai fatti altrui e a cose banali. Ma pensiamo qualche volta anche a chi siamo noi e non critichiamo soltanto l'inquilino di sotto perché ha lasciato aperto il garage. Per chi ha i problemi del pane, ovviamente, questa autoanalisi è più difficile, perché se non c'è un minimo di cultura e un minimo di capacità di pensare, perché la vita ha travolto ottenere il minimo possibile per sopravvivere è più difficile che si pensi. Ci sono delle eccezioni, ma è più difficile per uno che i problemi del pane non ce li ha. Socrate l'aveva già detto nel famoso Non si sautom, più direi conosci te stesso. A questo dovrebbe impararsi anche la scuola, invece di insegnarci che Annibale è venuto con, attraverso le Alpi con gli elefanti, che non ne frega niente a nessuno. La libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale, anche noi, che siamo in un periodo fortunato da circa 70 anni, quando comincia, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Grande costituzionalista, Piero Calamandrei, e questo uno circondato da un sacco di cellofan che non gli penetra l'ossigeno e che sta per morire. Questa è, cerca la libertà, ma la libertà non c'è più, non è più disponibile, e lì o due restano fuori. Pochi memori della sua privazione nel ventennio, perché gli errori si possono fare, ma diabolico un perseverare. Corresponsabili sono la poca memoria, che già comincia in famiglia, nella scuola non se ne parla, non arriviamo neanche al conflitto dell'ultima guerra mondiale, neanche la notizia di cosa è successo a Hiroshima o Nagasaki, e sappiamo tutto su Ettore Andromaca. Una giornata frettolosa ogni 25 aprile per festeggiare la fine di una dittatura non basta, come non basta il giorno della mamma, il giorno del papà, il giorno di nonni, mi aspetto di vedere il giorno degli zii, non c'è ancora, ma è in gestazione. Costituzione, se la si disattende, guai in vista, meglio custodirla e ravvivarla spesso. Martin Luther King, la libertà finisce dove comincia quella degli altri. Questo dovrebbe essere un sistema di autocontrollo spontaneo e di cui dovremmo essere coscienti tutti insieme, altrimenti si rischia il caos. Sprecare la vita senza pensare è il rischio maggiore per i meno abbienti. Era molto sensibile alla società e ai poveri questo signore qua, che è stato capo dei Tupamaros, quindi di un movimento di ribellione importante, e che è diventato però presidente dell'Uruguay per 5-6 anni. È stato così convinto di queste idee e si è comportato, risulta da documenti, non per quello che vi dico io, è stato veramente coerente con questo, tanto che quando è decaduto da presidente si è ritirato a vita privata, ma si era fatto ridurre il proprio stipendio da presidente dell'Uruguay a quello che vedete qua, autoriduzione a soli $485. Si è ritirato in campagna, non ha fatto più politica e viveva quando... Ma io mi domando, senza pensare a nessuno, quindi non c'è, mi domando se fosse successo con un personaggio politico italiano, saremmo svenuti. Qui si ritrovano anche quelli che sono stati depennati dal vitalizio, gli è stato rimesso, gente che è stata condannata, che è stata è una roba incredibile. Questo qui ha fatto questa roba qua, e mi pare che era il caso di ricordarci. Meglio avere vivo, eccolo qua. Pensano meglio dei problemi, ma non sono esenti neanche i poveri del consumismo. La società spinge a consumare sempre di più anche cose inutili. Chi non può più consumare come prima, quale che sia la cosa che consuma, si sente povero. Magari questa cosa non gli serve a niente, magari va male, però si sente povero perché prima la poteva comprare e adesso non la può più comprare. Ma questo sarà infelice per sempre. Valore della sobrietà, che non significa avarizia, della sobrietà in tutti i sensi, a prescindere dal ceto. Non è vero che abbiamo poco tempo. La verità è che ne sprechiamo molto. Lo diceva Seneca, prima di Cristo, il secolo prima di Cristo. Vi immaginate adesso come sprechiamo il nostro tempo con i mezzi che la tecnica ci mette a disposizione? Col cellulare fotografiamo il coccodrillo, mandiamo alla zia che sta in Australia. Pochi lo ricordano questa verità assoluta, che ne sprechiamo molto, tutti, anche quando pensiamo di non sprecarlo. Pochi lo ricordano, evitare le ciacole. Quante volte la chiacchierata è positiva, la chiacchierata è un elemento umano, l'uomo è un animale sociale, politikonzon. Noi siamo sociali, ma un conto è la chiacchierata, un conto è la chiacchierata inutile, banale, su cose banali. Non parlare tanto per parlare, e spesso questo parlare è sparlare, pensare almeno qualche volta. Oggi non abusare dei cellulari e degli auricolari, non zapping alla TV, ma scegliere un programma che si vuole o spegnere. Non è che se lo scelgo non mi trovo male, giro, cambio e vado a trovare un altro che mi soddisferà o no. Va spento. Non spegnere invece la conversazione, la lettura e la meditazione. Quasi tutte le famiglie, siccome si ritrovano all'ora di pranzo e all'ora di cena, cenano e pranzano con la televisione accesa per sentire cosa è successo. E quando si parleranno? Sul lavoro o ciascuno fa la sua vita? Si ritrovano all'ora di pranzo per scambiare due robe, per stuzzicarsi, per preparare una serata affettivamente intensa? Ma se guardiamo, se mentre guardiamo solamente robe che non ci interessano. Non spegnere invece la conversazione. Chi l'ha detto non era un cretino, voi sapete che ha avuto tutti è noto perché si è avvelenato, eccetera, indotto da Nerone ad avvelenarsi, ma non riusciva a morire dissanguandosi. Ha dovuto prendere la cicuta perché solo con l'emorragia da taglio dei vasi non moriva. Quindi si è fatto ed era conscio, è stata una sua scelta. Scienza, pseudoscienza, informazione, pseudoinformazione. La scienza prima verifica e poi parla. Non fidatevi solo delle opinioni, non fidatevi, dice Angela, dell'ipse dixit, non fidatevi neanche di quello che vi dico io. Bufale strepitose, la dimostrazione di quanto vale, guardate l'espressione intensa di Piero, era ancora abbastanza bene. Esempi, Montagnier è stato un genio, ha condiviso con fatica, con un gallo, la scoperta del virus dell'AIDS, e però è diventato imbecille totalmente in tutto il resto ed è quello che ha portato a mano della papaya al Papa per farlo guarire del morbo di Parkinson. Non sta nella grazia di Dio. È una malattia che è codificata, si sa benissimo cos'è, cosa vuole. Questo qui, sto Jane, è stato un fisico geniale di origine russa che ha scoperto il grafene. Sapete cos'è? Tanto per dirvi, immaginatevi, è uno strato monoatomico di atomi di carbonio, cioè un atomo di carbonio attaccato a un altro atomo di carbonio, a un altro, uno strato, immaginate la sottilità. Bene, questo ha rivoluzionato l'informatica. Lo stesso individuo ha preso il Ig Nobel, che suona in italiano ignobile, perché aveva fatto una teoria che le ranocchiette in un campo magnetico saltassero allegre sullo spazio. È stato premiato con l'Ig Nobel, che era una titolo assegnato da altri premi Nobel, che il premio Nobel si svolgeva a Stoccolma, l'Ig Nobel si svolge in America. Era una presa in giro, un riconoscimento che anche il genio atomico può dire delle cazzate. La verità scientifica non si decide una maggioranza. Galileo Galilei ne sa qualcosa nel 633, costretto alla biura, mentre la maggioranza, che non ha evidentemente quasi mai ragione, credeva nel geocentrismo imposto dalla Chiesa. È stato riabilitato, ma 3 secoli dopo, un po' tanto lentamente, perché se sbagliamo e vogliamo correggerci, dovremmo correggerci un po' prima, anche perché nessuno di noi vive 3 secoli. Covid, la maggioranza, grosso modo, prendetela un poco di sinistra, pensa che sia una maggioranza, una virosi grave, il Covid-19. La maggioranza di destra, una virosi simile influenzale. Ma che cazzo c'entra la destra e la sinistra con la mortalità del Covid che nel mondo a oggi ha fatto 6.950.977 morti? Cosa c'entra la politica? Questi sono dati del luglio del 23 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nella sezione che si occupa di salute dell'emergenza, eccetera. Ottenere informazioni da internet, e ritorniamo al patofobo, è come servirsi di un drink con un idrante. Voi immaginatevi un calice, dentro c'è un po' di Campari, invece che spruzzare col sifon, no? usiamo la pompa della benzina, come vedete in questa immagine. Verifica della fonte, ma spesso non è agevole, non è cercata, ma anche cercandola non è agevole la fonte, perché bisogna vedere quello che dice, viene citato, perché uno nella sua giornata non aveva tanto tempo per cercare. 60% dei giovani riceve notizie false più volte alla settimana, quindi non sono liberi poi a 18 anni di fare quello che vogliono, sono stati imboniti due volte alla settimana. Solo il 51% se ne rende conto. Fake news a proposito di Covid-19. Una, per dire, clamorosa, è servita a far guadagnare miliardi per un tempo brevissimo, ma in quel tempo brevissimo hanno guadagnato miliardi. Quella di proporre un braccialetto anti-Covid. Allora, voi pensate anche col buon senso di mia zia Maria, come si può pensare che un braccialetto abbia un'azione antivirale? Che già gli scienziati masticano male questo campo qui. Eppure ha venduto poi a un certo punto, clamoroso, ma è bastato quel guadagno lì per rendere molto ben agguerrito qualcuno. Politica, storia e leggi. Le leggi sono, facciamo felice anche il dottor Kramer, che è presidente della Dante, è innamorato di Dante Alighieri giustamente, e questo è un versetto, le leggi sono, ma chi pon mano ad esse? Tanto per prima di commentarvi la sinistra, vi commento la destra, che non basta che ci sia una legge, ci devono essere i decreti attuativi di questa legge. Senza i decreti attuativi la legge non ha nessun valore e nessuno sa di questa piccola sfumatura. Sappiamo tutto di tutto, le macchine, è una cosa importante da sapere, non vuole diventare dei tecnici, sapere però che senza decreti attuativi, qui abbiamo un avvocato insigne, mi potrà correggere se sbaglio. Bene, non è vero che non si sono mai applicate e che non si è mai posto mano ad esse, perché nel 1938 il Consiglio dei Ministri delibera l'esclusione delle scuole di tutti gli insegnanti ed alunni nati da genitori di razza ebraica. Questa legge è stata applicata immediatamente ed è durata fino al 1945. Ma in generale le leggi non si vengono applicate. Questo lo diceva Dante in periodi non sospetti, non c'era né la destra, né la sinistra, né Meloni, né Berlinguer. Diceva uno che aveva la testa colta e capiva quant'è la gravità di questa discrepanza tra normativa e attualità, realizzabilità della stessa normativa. La legge non è uguale per tutti, dice già Roberto Casaleggio. Non è un personaggio che mi ha entusiasmato, ma quello che dice è importante. La legge non è uguale per tutti, basta disporre di buoni avvocati, molti soldi e non fai un'ora di galera. Sarà troppo esasperata, chiederemo conferma anche al dottor Maia, sarà esasperata, ma un pochino questa sensazione ce l'hai. Perché per far andare in galera, io ho un ricordo di una miliardaria che è andata in galera ed era la signora Gucci, che aveva commissionato un omicidio. E un uomo insigne, un miliardario, un potente politicamente, che ha fatto una galera pesante, io non ne ho memoria. Colpevoli se potenti, beccati e condannati di rado. Reati di ricchi durano in media meno degli scandali sessuali. Se hanno fatto uno scandalo sessuale, allora restano, ma il reato in sé scompare abbastanza rapidamente. Principi del foro verso l'avvocato d'ufficio Lotta Imper, l'avvocato d'ufficio che sarà assegnato al poveraccio che non ha nessuno. La prescrizione, la sensazione che sia un salvagente che passa sotto traccia. Perché è difficile per me, che non è il mio campo e l'avvocato ci aiuterà, ma nella prescrizione non sai bene cosa vuol dire. Era colpevole? Sì, era colpevole, ma non è stato dimostrato. Insomma, sono quelle cose che nella vita normale, nella nostra logica normale, è un argomento che mastichiamo molto male. La zecca zarboli compiacenti alla Manzoni sono favoriti anche da buchi legislativi, perché se la legge fosse chiara, anche gli azzecca garbugli avrebbero meno spazio, ma se la legge lascia dei buchi, come il formaggio lementa, allora questo l'ha detto la legge forse, ve lo ricordate, questo grande autore Robin Smith che si è suicidato depresso perché il mondo andava malamente. L'esempio clamoroso poteva essere la morte per mesitelioma, che è una bruttissima neoplasia, che resta segreta, resta non manifesta per tanti anni e poi nel mezzo dell'età di nostra vita, proprio quando l'individuo già ha inserito la famiglia, scappa fuori. Bene, 395 persone sono morte, documentatamente morte, è stato documentato che sono stati colpevoli questi due che erano anche dei nobiloti, uno di due era anche nobiloto, non si sono fatti un giorno di galera. Verità, bugia e contraddizione. Una bugia in tempo fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, ecco Pinocchio che si stacca dalla terra, mentre la verità si sta mettendo ancora le scarpe. E allora, siccome ci sono più bugie che verità in questo mondo, siamo tutte vittime, volenti o nolenti, siamo vittime più delle bugie che delle verità. Vi ricordo che ai tempi di Jenner, nel 76, è uno che si era accorto, un veterinario inglese, si era accorto che le mucitrici delle vacche non si ammalavano di vaiolo, gli veniva qualche pustoletta e si è chiamato vaiolo vaccino. E lui ha capito, ma se sono così tenui le conseguenze mungendo le vacche, forse se noi attenuiamo il virus del vaccino umano, otteniamo un grande beneficio. Quando ha vaccinato il figlio della mungitrice e probabilmente anche un proprio figlio, gli hanno detto di tutto, anche la società medica si è rivoltata contro Jenner e gli ha detto, facendo così il pericolo è che la gravida vaccinata per il vaiolo vaccino partorirà un figlio che va alla testa della vacca. E per sei mesi, sette mesi, la comunità scientifica internazionale ci è andata dietro. E vi ricordo che il vaiolo ha fatto centinaia di milioni di morti e non esiste più come malattia, esistono solo dei virus conservati dalle grandi potenze, forse qualcuno di più che non si sa. In caso di guerra atomica, di guerra, c'è ancora la salvezza di avere un vaccino che possa portare alla distruzione globale. Comunque, in casi di vaiolo, dal 1900 non ci sono stati più. E siamo ancora gente che eccepisce contro il concetto della vaccinazione. Ma è una roba pazzesca. Per l'uomo che non pensa, la creduleria istintiva è vincente. Voi guardate questa meravigliosa vignetta che vorrei aver fatto io, che non so disegnare. Qui c'è il banchetto con le frottole confortanti e c'è la fila. Qui c'è il banchetto con verità sgradevoli, non c'è nessuno. Ma siamo vittime, anche noi andiamo ogni giorno ai banchetti. Più o meno andiamo ogni giorno a questi banchetti. È meglio ammirare sinceramente un falso capolavoro che ammirare falsamente un vero capolavoro. Allora, questo è chiaramente un falso, perché Mona Lisa non aveva queste protuberanze interessanti esposte al vento, ma questa è sincera. Allora, questa è un'emozione che vale, anche se il quadro è falso. Uno che si emoziona dopo averne visto 10.000 quadri del taglio di Fontana, che si emoziona ancora con questo taglio, questo non può emozionarsi. Quindi si emoziona perché è essere in, perché se tu dici che non ti piace Fontana, sei un mona. Preconcetti, fede e religione, siamo per arrivare alla fine. È più facile disintegrare un atomo che demolire un pregiudizio. Questa è una verità sacrosanta, ce la possiamo pensare autocriticamente a noi quanto ci abbiamo messo a cambiare il giudizio su un pregiudizio che avevamo. Ne fanno le spese i disabili, sui quali c'è molto pregiudizio e anche atteggiamento comportamentale diverso da quello che dovremmo avere come esseri umani. Il sesso femminile che è discriminato sempre e comunque, anche se le cose sono migliorate, non siamo in Iran, la gente può anche tirarsi via il fazzoletto dal viso e non perde la vita. Ma intanto, per cominciare, la retribuzione è circa il 30% in meno delle donne e degli uomini. E in generale, comunque, la donna deve seguire il nocchiero, il marito il nocchiero, il marito che poi fa come mio nonno che ha fatto 13 figli, mia madre era la 13ª, voi pensate cos'è stata la vita sentimentale sessuale di mia nonna. Mia mamma è nata 13ª, ogni ubricatura del sabato sera nasceva un figlio. E il razzismo. Ma se un disabile, un campione sportivo o attore eccetera diventa celebre, allora quel disabile la società lo accetta, e come? Ma deve essere bravissimo, ricchissimo, bellissimo. Eccoli qua, per fortuna questi non sono discriminati più tanto. Uno è Bebe Vio, uno è, inutile che vi dica, sono celebri. Questo è Ezio Bosso, che è commovente, ha diretto l'orchestra stando neanche in piedi, con le lacrime, con una passione incredibile, e questo qui che continua a credere nella vita, e qualcuno se lo ricorda solo perché Zanardi, ma se non si chiamava Zanardi, si chiamava un altro nome, non se lo ricordava nessuno. Quando non ci si aggrappa alla parola del Signore, ma si consultano oroscopi, cartomanti e pseudoscienze, si comincia ad andare a fondo. Quell'uomo pericoloso rivoluzionario di sinistra, che è Papa Francesco, ha pronunciato questa frase e alludeva evidentemente agli oroscopi. Io ci ho messo dentro per contrasto, un contrasto perché mi fa rabbrividire solo vederlo, è il mago Otelma. Ma voi pensate che questi oroscopi nessun quotidiano italiano nazionale si permette di non pubblicarli giornalmente, senza destare scandalo di nessuno. Ma sono cose grosse, non perché le dico io chiaramente, ma voi pensate che io lunedì sono fortunato in amore, sono povero, e martedì sono invece ricco di soldi ma scarso in amore, e mercoledì ma ridiamo tutti, ma nessuno protesta. Ho provato qualche volta timidamente, ho scritto per vari giornali, tentare di modificare. È una il proprietario del giornale sa che la gente va a vedere gli oroscopi, e allora li mettiamo dentro. Ma se partiamo da questo presupposto, dove andiamo a finire, ragazzi? Non tutti i capi religiosi hanno la stessa chiarezza e sincerità di Papa Francesco. Guardate la motivazione principale di Cirillo, che giustifica la invasione russa dell'Ucraina dicendo che la guerra in Ucraina è contro chi sostiene i gay. La presenza di gay in Ucraina era sufficiente per giustificare l'invasione russa, che non è un'operazione speciale. E questo bel imbusto qua, che ha la candela in mano, che bacia ogni volta che può farlo, bacia la mano di questo, che ha diretto il KGB durante lo stalinismo più atroce, e adesso è cattolico, ortodosso, cristiano, scusate, ortodosso, e va sempre e porta la candela qua. Da notare che Cirillo è patriarca delle chiese ortodosse russe, l'altrettanto, l'alter ego di Kiev dice che no, che non è vero questo, quindi credono allo stesso Dio, hanno la stessa religione, nessuno crede all'Immacolata Concezione, non credono alla Madonna che sa, hanno mille ragioni per essere simili da un punto di vista religioso, ma sono sufficienti per avere un'idea assolutamente contrapposta per quanto riguarda lo scempio che sta facendo in Ucraina. E chi ci guadagna, vi ricordate il vecchio proverbio, almeno a scuola si enfatizzava qualche volta, qui prodest, quando non sappiamo come pensare, proviamo a pensare, ma chi se ne avvantaggia di sto casino? Intanto, senza dare giudizi, intanto se ne avvantaggia chi produce armi. L'industria delle armi ci guadagna, comunque sia giusto o sbagliato, no? Uno interviene, è molto complesso e non cambieremo, se non siamo cambiati fino adesso non cambieremo mai più, questo è il destino dell'uomo, le civiltà sono scomparse e scomparirà anche la nostra, ma qui prodest è una legge fondamentale. Se la ricchezza non dà la felicità, torniamo a Gervaso, ci fa sopportare meglio però l'infelicità, quindi non facciamo tanto i romantici, se i soldi non fa la felicità, però a parità di infelicità, meglio averli che non averli, perché anche questa sincerità e questa cessazione di illudere la gente, ma anche i ricchi si ammalano, anche i ricchi muore, anche i ricchi, sì, però sopporta meglio la disoccupazione, se hai 100 miliardi in banca, vedrai che sopporti meglio anche la separazione di tuo figlio o di tuo fratello. Caratterialmente poi c'entra anche il carattere e quindi l'educazione familiare, ma forse anche la genetica. Uno è portato a questa situazione qua, uno a questa. Questo è felice perché ha una fetta di torta nel piatto. Gli basta una fetta per ridere e sentirsi gratificato. Ha una fetta da mangiare. La stessa fetta manca da questa torta e questo secondo qua, che vede che ha tutta la tarta per sé per sfamarsi, ma mi manca una fetta, è infelice. Questo è un errore che non dovremmo commettere mai. Sicuramente se volete una confessione, io qualche volta pecco di questo tipo di errore. Ci si dimentica spesso quello che abbiamo e quello che non possiamo avere, che magari è molto meno importante, perché anche questo più di una fetta non può mangiarla, però è triste lo stesso. Questo ne è una sola, questa è questa vignetta è meravigliosa. Se il denaro non può dare felicità, figuriamoci la miseria. Woody Allen. Salute, amore, progetti, prospettive, sogni, agiatezza, felicità. Non è possibile avere tutto contemporaneamente al massimo livello. E quindi il segreto è che la felicità è desiderare quello che si ha. Questo sarebbe un segreto difficile da raggiungere, ma nulla è facile in questa vita. Io non mi ricordo di aver conosciuto altre persone, ma se le cose che valgono dalla partita di tennis impegnativa a una finale, all'esame di terza della maturità, al liceo, tutto costa fatica. In quel periodo in cui ti prepari la felicità non esiste, esiste soltanto l'ansia dell'esame che ti sta per tormentare. Pace e guerra, e ho finito. Nello sport si vince senza uccidere, almeno nello sport. In guerra si uccide senza vincere, perché gli sconfitti, l'umanità è sconfitta, in particolare i due contendenti o i tre, ma in generale è una sconfitta per tutti. Voi pensate, questa è la scala di Re di Puglia, in guerra si uccide, oltretutto in guerra si uccide la meglio gioventù, si uccidono i giovani che vanno a combattere prima di tutto, che non è che sono meno gravi dei civili, sono esseri umani che muoiono, ma questi muoiono quando non hanno cominciato neanche ad amare, a mettere su famiglia, a impegnarsi nel lavoro. Qui abbiamo 100.000 vittime nella scala scalinata di Re di Puglia, che io ho visitato più volte, e su ogni scalino c'è scritto presente. Il riconoscimento di questo sacrificio fisico mortale è presente. Ignoti 39.000 e ignoti 630.000. Chi se lo ricorda? E pochi decenni dopo, Seconda Guerra Mondiale. Pochi decenni dopo, e adesso siamo a pochi. No. Questa è solo per dire, vedendo questa fotografia di un padre che ha già un arto amputato lui, che alza un bambino senza braccia e senza gambe, senza ONU, senza comitati, senza tappeti verdi, e tutti col tappeto rosso, e le tavole dei grandi politici, sempre i fiori e le robe. Basterebbe una fotografia così per dire, non dovrebbe bastare all'Homo sapiens per dire basta guerra, perché questo è un simbolo tragico. Il bambino è felice e senza arti, per colpe non suo, non credo che abbia commesso un peccato originale per essere così, no? E ride perché gli basta l'abbraccio di suo padre. Conclusioni. C'è sempre da imparare in ogni campo, ma per riuscirci, come il titolo del libro, ma per riuscirci bisogna volerlo. Bisogna leggere, saper ascoltare, pensare, ricordare, cambiare quando occorre, ma in buona fede, non per utilità personale, insegnare alla nuova generazione. Ecco l'ultima. Homo sapiens, no, insipiens, non ha imparato niente. Perché almeno avesse letto questo libro, può darsi le cose sarebbero lette. Ma non lo hanno letto perché non glielo ho mandato. Voi guardate qua. Dopo queste cose, considerazioni che ci fanno pensare, pensiamo all'Ucraina cos'è, pensiamo cosa sarà, se anche finirà un giorno, cosa sarà la ricostruzione di questa qua. Un'Ucraina che è circondata, come vedete, da questa. E qui, da Peres, che ho nominato prima, che ha preso la diapositiva precedente, qui avete una fotografia meravigliosa, io mi ricordo che mi sono commosso ai tempi a vederla, c'era Rabin e Arafat che si stringono la mano nel 93 e che decidono nel 93 che ci saranno due stati, Palestina e Israele. Guai se andiamo indietro, ma l'Israele non aveva lo Stato, erano tutti sparati, ne siamo per, perché se andiamo indietro non la finiamo più, andiamo a Abele e Caino. Adesso hanno capito questo, grazie a Clinton si sono stretti la mano. Clinton quel giorno lì non stava con la sua ragazza e ha favorito questo incontro, una grande stretta di mano e lasciava il cuore veramente aperto. Io credo che mi sono commosso di fronte. Vediamo cosa succede. Questo 93, siamo 2023. e siamo a livello di un pericolo potenziale di guerra mondiale. Voi pensate che c'è un'arma atomica, che ho tirato via la diapositiva per non annoiarvi ancora e finisco così, che si chiama Zar, è una bomba atomica così potente che una bomba sola nel mondo determinerebbe la fine planetaria. Ed è tutto sommato un deterrente perché non succeda la cosa atomica. Ma se per caso uno è impazzito, beh, siamo nel 93, avevamo fatto un grosso passo avanti, e come posso dire che il progresso è inarrestabile? Quale progresso se dal 93 ci troviamo in questa situazione oggi? Quindi, spes ultima dea, pessimismo dell'intelligenza, perché questo, se andiamo, se siamo uomini pensanti, non possiamo non essere pessimisti, ma ottimismo della volontà. Proviamoci, e questo è l'auspicio mio a voi e anche a me stesso. Grazie. Ecco, grazie ancora per la bellissima serata ricca di spunti di riflessione, e come anticipato prima ci sono delle copie del libro a disposizione da acquistare. Il ricavato sapete che va a servire. Grazie ancora, professor Dobrilla. Grazie.